La legge di stabilità che il governo si appresta a inviare al Parlamento sabato, ma che ha già invece inviato alle autorità europee, non è che l'ennesimo tentativo di spostare reddito a favore delle imprese. Già soltanto attraverso l'abbattimento dell'IRPEF dal 27,5 al 24%, ovvero la tassa sui profitti, una riduzione attraverso cui il governo chiede sempre meno alle imprese di contribuire alla fiscalità generale, che poi è quella che finanzia i beni e servizi per la maggioranza della popolazione. Allo stesso tempo, nel pacchetto Industry 4.0 viene inserita la norma sul super e iperammortamento fino al 250%, ovvero i costi sostenuti dalle imprese per software, nuovi macchinari saranno rimborsati non soltanto nella loro interezza, quindi al 100%, ma il governo di fatto dà altri soldi per incentivare questi investimenti. Ma al di là di quello che è lo spostamento di reddito dalla fiscalità generale a quelli che sono i costi delle imprese, si vede una totale, si nota in questa norma, una totale delega per quello che è la politica industriale, ovvero nella decisione di cosa e quanto investire in determinati macchinari. E questo ritorna un po' nell'idea secondo cui da un lato vengono socializzati i costi di questi investimenti, perché appunto verranno pagati dalla collettività, ma nel caso in cui andassero a buon fine ci sarà una privatizzazione del profitto, quindi della rendita di questi investimenti da parte delle imprese. Dall'altro lato, sempre sul piano invece delle imprese, ma per quanto riguarda l'occupazione, sembrerebbe che il governo sia intenzionato a reinserire quelli che è stata la decontribuzione totale sul costo del lavoro fino a 8.000 euro, come nel 2005, restringendo però la platea dei beneficiari, quindi di lavoratori giovani di fatto. Ovvero il governo pensa di rimborsare e quindi eliminare il costo sul lavoro per le imprese che assumono dei giovani diplomati o laureati che hanno svolto presso questa impresa un tirocinio, uno stage, quindi attraverso il meccanismo di quello che è l'alternanza scuola-lavoro. Dall'altro lato invece notiamo che per quanto riguarda appunto il fabbisogno di questa maggioranza e la popolazione, il governo procede per il terzo anno consecutivo con quello che è il meccanismo dei bonus, che possono essere definite in questo caso, ma non soltanto, anche come fu all'inizio con gli 80 euro, delle vere e proprie mance elettorali, in questo caso in vista del referendum costituzionale del 4 dicembre. Infatti, da un lato, il governo intende inserire questo bonus famiglie per gli asili nido, quindi famiglie sotto un certo livello di reddito con due figli piccoli a carico. Il problema però forse è che il governo ha dimenticato che l'annuncio dei 1.000 asili pubblici in 1.000 giorni non è stato mai evaso e di conseguenza, cioè, non soltanto da un lato mancano gli asili in generale, ma soprattutto mancano quelli pubblici, quindi questi bonus andranno sempre soltanto a favore in qualche modo di quello che è l'educazione per l'infanzia da parte privata. Anche qui quindi si vede in qualche modo come una sfera delle competenze proprio dello Stato che rispondono appunto al fabbisogno di scuole per l'infanzia, quindi dei diritti dei cittadini, viene spostata diciamo alla sfera del mercato, comunque privato. Dall'altro lato, per quanto riguarda invece i bonus, c'è cioè il pacchetto sempre pensioni attraverso un aumento della quattordicesima per chi già la percepisce, un allargamento della platea, ovvero di coloro che finora non hanno la quattordicesima, perché però hanno una pensione tra i 750 e i 1.000 euro. In realtà, beh, questo è un provvedimento che riguarda più di 2 milioni di pensionati, sicuramente da un lato positivo, dall'altro però se si guarda sia l'entità sia appunto i meccanismi attraverso cui avviene, diciamo, l'efficacia del provvedimento sicuramente viene meno. Per quanto riguarda però il pacchetto delle pensioni, il governo in qualche modo, come dice la CGIL, si è rimangiato la parola, ovvero per quanto riguarda l'APE agevolato, quindi l'anticipo pensionistico a costo zero, ha aumentato da 20 a 30 anni i requisiti contributivi, di fatto restringendo quindi la platea dei lavoratori che possono andare in pensione con questo meccanismo senza dover sostenere i costi di mutui e assicurazione. Dall'altro lato però non si nota nessun intervento a favore dei redditi o comunque dei bisogni delle generazioni più giovani, che oggi sappiamo essere molto più povere delle loro precedenti, e su questo il governo, al di là di introdurre altri meccanismi di bonus, avrebbe semplicemente potuto in qualche modo abolire quelli che sono stati gli ultimi 25 anni di regolamentazione e deregolamentazione del mercato del lavoro, che sono i veri fattori che poi spingono questi giovani verso la precarietà, ma anche la povertà, in assenza di un welfare universale. Un'altra delle componenti è quello che riguarda l'università: aumentano ancora una volta i fondi per le università private, invece per quanto riguarda le università pubbliche si va avanti con questo meccanismo abbastanza imbarazzante delle cattedre Natta, che saranno di fatto di nomina governativa e che comunque riguardano soltanto 500 nuovi professori a fronte di 40.000 precari all'università. Sul fronte però delle coperture, quello che un po' preoccupa non soltanto l'ufficio di bilancio, ma in generale la popolazione, il governo punta da un lato sull'ennesimo condono attraverso la voluntary disclosure per chi di fatto ha evaso e detiene soldi all'estero, e dall'altro lato c'è una parte di abbattimento del fondo di finanziamento per la sanità che da 15 miliardi, così come previsto dall'accordo Stato-Regioni, passa, se non sbaglio, dai 12 o 13, è una spending review di cui in realtà non c'è traccia. Quindi a conti fatti rimane la solita manovra comunque austera, perché appunto sappiamo benissimo che la spesa e il deficit rimarranno intorno al 2% del PIL, ma allo stesso tempo appunto c'è l'ennesimo tentativo di spostare, no, a favore di pochi, ovvero sui profitti delle imprese, una parte del reddito, svincolando da quello che è la loro responsabilità sociale, ovvero il contributo nei confronti, no, della fiscalità generale, quindi dei fabbisogni e dei bisogni, diritti della maggioranza della popolazione.